La storia e la memoria di Dino Pesole e Alessandra Scaglioni. Buona serata e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con la storia e la memoria. Nell'approfondimento di Dino Pesole di oggi ripercorreremo la storia dell'integrazione europea, dalle prime forme di cooperazione tra gli Stati europei alla nascita dell'Unione Europea all'adozione della moneta unica. Ospita ai nostri microfoni l'ambasciatore Rocco Antonio Cangialosi, consigliere diplomatico del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e direttore dell'Ufficio Affari Diplomatici al Quirinale. L'anno che è appena cominciato è il primo di una nuova era per l'Europa. Dopo una lunga e tormentata fase di gestazione, approvazione e successiva ratifica, il nuovo Trattato di Lisbona cambia il volto della vecchia Europa, con la presidenza permanente, con la figura del nuovo ministro degli esteri, che rappresenterà l'intera Unione nelle sedi internazionali, ma anche con il potenziamento del Parlamento europeo. Certo, ben altri e più ambiziosi erano i progetti e le aspettative quando si è messo in moto il convoglio del nuovo trattato costituzionale, ma è pur sempre un inizio. Nella storia della costruzione europea diversi sono stati del resto i momenti di stasi cui si sono alternati proficui avanzamenti. Tutto nasce dalle prime coraggiose e lungimiranti azioni messe in campo negli anni immediatamente successivi alla Seconda Guerra Mondiale. È il 9 maggio 1950. Siamo in piena guerra fredda. Il mondo, uscito prostrato dalla Seconda Guerra Mondiale, è diviso in due blocchi contrapposti. Si rischia di scivolare in un altro conflitto. Il ministro degli esteri francese, Robert Schuman, lancia a sorpresa la proposta di creare una forma di solida cooperazione tra i paesi europei. È quella che è passata alla storia come la Dichiarazione Schuman, il primo vero passo verso l'integrazione europea. L'Europa, aveva detto un altro dei padri fondatori, Jean Monnet, andrà costruita passo passo, dalle fondamenta. Viene così proposta una istituzione europea sovranazionale cui affidare la gestione delle materie prime, che all'epoca erano il presupposto di qualsiasi potenza militare, il carbone e l'acciaio. Nasce la CECA, la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio. Sei i paesi firmatari del trattato: Germania, Belgio, Francia, Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi. Comincia la lunga marcia verso l'Europa unita. Nei primi anni 50 si pongono dunque le premesse per realizzare quell'idea di Europa che prima di Benedetto Croce era stata coltivata da Mazzini e Cattaneo e che Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi, confinati politici del fascismo, tradussero in pratica nel manifesto di Ventotene del 1941. Dai trattati di Roma agli accordi di Maastricht del 1992, che hanno posto le premesse per l'integrazione economica e monetaria del vecchio continente, i trattati istitutivi sono stati modificati più volte. Oggi i paesi aderenti all'Unione sono 27. Abbiamo in linea l'ambasciatore Rocco Antonio Cangialosi, consigliere diplomatico del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e direttore dell'Ufficio Affari Diplomatici del Quirinale. L'ambasciatore Cangialosi è stato dal 2004 al 2008 rappresentante permanente presso l'Unione Europea a Bruxelles ed è autore di un libro appena pubblicato da Marsilio dal titolo Il ventennio costituzionale dell'Unione Europea, testimonianza di un diplomatico al servizio della causa europea. Ambasciatore, grazie per essere con noi. Grazie a voi. E allora, ambasciatore, una prima domanda avrei per lei. Dal suo osservatorio privilegiato, che Europa ha visto in questi ultimi anni? Beh, guardi, è stato un periodo crescente, ovvero sia abbiamo visto l'Europa che dall'atto unico al trattato di Maastricht, poi a Nizza, poi alla convenzione che aprirà le porte per il trattato costituzionale, si è lanciata nello sviluppo di questo tragitto che, come prevedono i trattati, verso un'Europa sempre più integrata, verso popoli sempre più vicini, verso una politica estera comune. Naturalmente questo periodo è stato contrassegnato anche da delle forti contrapposizioni. Basta ricordare ad esempio al momento dell'atto unico a Milano, quando il Consiglio europeo, nell'ambito del Consiglio europeo la signora Thatcher fu minorizzata e il presidente del Consiglio dell'epoca, Bettino Craxi, convocò con una semplice maggioranza la conferenza intergovernativa che doveva portare a questa prima revisione dei trattati di Roma, cioè l'atto unico che in definitiva è stata una pietra miliare nella costruzione europea perché ha aperto le porte al grande mercato unico, alle famose 300 direttive contenute nel libro bianco di Delors e ha dato lo slancio per questa parte della costruzione europea. Successivamente la caduta del muro di Berlino ha spinto di nuovo l'Europa a una nuova riforma costituzionale per poter ospitare al suo interno i nuovi stati membri, inizialmente 10, poi 12, e quindi anche lì nasce il Trattato di Maastricht, molto importante perché c'ha una valenza esterna importantissima e una interna che riguarda la creazione della moneta unica, dell'euro, e anche lì constatiamo all'interno forti contrapposizioni, ancora una volta la signora Thatcher viene minorizzata e nonostante la sua posizione le due conferenze intergovernative vengono lanciate. Sì. Di lì a poco avremo tutta una serie di altre conferenze intergovernative perché in effetti non basterà il trattato di Maastricht a risolvere i problemi per accogliere i nuovi stati membri, rimarranno alcuni problemi riguardanti il deficit democratico, il numero dei commissari, la ponderazione dei voti e sarà necessario vedersi prima ad Amsterdam e poi a Nizza, con un compromesso che non era affatto soddisfacente, ma con l'impegno praticamente a rivedere la struttura, l'organizzazione dei trattati e l'idea di lanciare questa convenzione. La convenzione costituzionale è un'invenzione certamente molto immaginativa che aprirà le porte al trattato costituzionale che verrà firmato a Roma, ma un anno dopo due referendum in Ferrara. Certo, bloccheranno in qualche bloccheranno modo questo processo e da lì ritorna un momento di ripiegamento dell'Europa, il Trattato di Lisbona viene approvato con grosse difficoltà se vogliamo, lo spirito costituzionale viene messo un po' da parte e cadono i simboli, cadono le parti più significative del trattato costituzionale, ma la sostanza rimane, certo. Ora bisognerà vedere come utilizzare questa sostanza nel prosieguo del tempo. Ecco, questo faticoso stato di avanzamento del processo di integrazione europeo che lei sintetizza nel suo libro non ha portato però ancora a quel passaggio fondamentale che è, diciamo, la maggiore integrazione politica dell'Unione Europea. Secondo lei l'avvio che ci darà il Trattato di Lisbona potrà condurre in un futuro forse non troppo lontano anche a questo fondamentale passaggio? È proprio come dice lei, in questo momento in effetti abbiamo meno integrazione, se vuole, ci sono dei problemi, è un'Europa più intergovernativa, ecco, un'Europa più intergovernativa dove prevalgono le logiche nazionali più che quelle comunitarie e dell'Unione stessa, però il Trattato di Lisbona mette in moto un meccanismo virtuoso perché potrà spingere questa integrazione in molti campi, a parte diciamo ci sarà più maggioranza qualificata anziché unanimità, il che faciliterà la presa di posizione, ma c'è un nuovo strumento per quanto riguarda la politica estera che è il servizio diplomatico comune. Questo sono quegli strumenti che poi messi in moto avviano un processo integrativo maggiore di quanto essi stessi siano destinati a fare. Il servizio diplomatico comune sarà sotto la guida dell'alto rappresentante e allo stesso tempo vicepresidente della Commissione, la signora Ashton, e credo che con questa strumentazione l'Unione Europea potrà presentarsi in maniera più coesa di fronte di fronte al contesto internazionale, tenuto conto che nessuno degli Stati membri sarà in grado di rispondere alle sfide della globalizzazione, alle grandi sfide che stanno coinvolgendo il mondo moderno, se non saranno uniti, se non rappresenteranno l'Unione nel suo complesso. Un'ultima questione, ambasciatore. Secondo lei la presidenza permanente dell'Unione Europea potrà dare un contributo nel processo di ulteriore integrazione politica del vecchio continente? Guardi, io penso di sì. Penso di sì che questo lo potrà fare, certamente metterà più ordine anche nella preparazione dei consigli europei, nella preparazione dell'agenda, nei contatti che potrà assicurare tra i vari capi di Stato e di governo, perché se prima abbiamo fatto un'Europa per l'amore dell'idea d'Europa, adesso dobbiamo fare un'Europa più integrata per la necessità che noi e gli Stati membri hanno di operare insieme nel contesto internazionale.